una bolla antincendi con un caldo terrificante. Infatti lì mi pare che si debba essere bello in salute, non bisogna fare, credo, cose cardiache, no, cardiopatia, roba del genere, me l'aveva spiegato un amico Barracello. Certe volte se ti sembra di morire arrostito dal caldo. Già c'è caldo in estate, in più quando devi stare tra una fiamma e l'altra a spegnere, è una cosa brutta. Ecco, meglio sì, ma non per altro, perché la forestale paga per tenere il luce della porta del foresta, e la domenica, e quando c'è la gente lì al mare, semplicemente d'estate, meno d'estate, dovrebbe farsi un giro per i pettini e controllare che nessuno abbia qualcosa che per fare fuoco, che nessuno ne abbia, capito? Sono, devono controllare loro. Se che arrivano degli ignoranti, non è colpa di nessuno, e così lì lo fanno e poi c'è gente prepotente che... È caduta la portante. Ascoltate la Puglia, cambio. Franco, Franco, sei sparito. Va, è mancata la luce a me. Avanti la Puglia. Buonasera, Marco da Sassari, dal nord della Sardegna, la Cuba del Mediterraneo, cambio. Eia, allora siamo, non dico parenti, ma compaesani, tutti parenti pugliesi, parte di nonna, parte di madre. Abbiamo fatto un bel collage tra Puglia e Sardegna, cambio. Sì, confermo, io ho solo 3 watt. Stavo parlando con l'amico Franco qua vicino, ma è sparito di colpo. Forse è mancata la luce. Marco! Ehi, Franco, eri sparito di colpo. Ehi, capo, corrente. Mancata la luce? Eia. Eia, dove eravamo rimasti qua? Ehi, che c'è gente che se ne frega, comunque non fa nemmeno il coso di pietra intorno, non toglie un po' di erba, di aghi di pino, proprio se la cercano certi. Dicevi, tanto non succede nulla, no? No, ma che? Tanto non succede nulla. Non hanno dei sassaresi, no? Sono scesi giù in diretta, sono scesi. Allora io ero al corso della protezione civile, parlando di parecchio tempo fa. Arrivano questi, una greppa, tutta una famiglia intera, ma proprio armati di barbecue, di quelli, uno di quelli fatti dalla certa lavatrice, la piccola e via, carbone. Sono entrati dentro, hanno cominciato a pulire un pezzo di posto, hanno messo il carbone e hanno cominciato a accendere il fuoco. Sono andati i vigili urbani, li hanno visto dalla strada, sono entrati, oh, lì stavano picchiando i vigili urbani. Beh, però già capisci che c'è, che gente è, capito? Gente che reagisce anche con le forze dell'ordine, gente manesca, stravagante, capito? E lì allora bisogna andare in forza e dargli una sussa tipo stile fascismo, una sussa a manganellate. No, i vigili urbani non si sono sconfitti, lì sono rimasti lì, hanno chiamato ritorsi, colleghi, mi sono parati, se ho letto, mi sono parati, veloce, l'hanno impegnato, stanno a manettare e l'hanno bussato. Cosa ne hanno ottenuto, no, questi a fare gli spavaldi? Minimo una denuncia o più di una, capito? Una sanzione probabilmente anche per il divieto di accendere il fuoco in pinetta. Vabbè, peggio Baetti, ha rovinato la giornata. Ecco, è giornata che sono rovinato. No, hanno portato via solo il... un uomo grande, ha avuto 40 e passa anni, è un ragazzo, i due che si sono girati a picchiare i vigili. Ah, uscire di via, è zitta. Per sicuro hanno chiamato rifugi. Sono andati, aiuto, stava bene con noi. La domenica te la fai da un'altra parte. Sì, ma immagino anche che se gente che fa così sarà già pregiudicata, c'è una denuncia in più, nemmeno gliela fatti nuda. Infatti, e poi le evocare subito pure. Sì, poi c'è sovraffollamento, eccetera. Vabbè. No, vabbè, lì non bisogna mai fare caso di controllo, bisogna essere collaborativi anche e non fare gli stravaganti. Oppure dire sì sì lo spegniamo subito, insomma, oppure far vedere che ti sei adoperato, no, magari quelli dicono vabbè state attenti, insomma, però in Sardegna succedono ogni anno, senza contare quegli animali che mettono fuoco, che mettono proprio le che innescano l'incendio, capito? Io mi ricordo tanti anni fa, chi era che me l'aveva raccontato? Vedeva il collega, non so se fosse antincendi, forestale, cosa era, dice che come spegnevano da una parte vedevano l'incendiario che appiccava fuoco dall'altra, e loro l'hanno visto col binocolo, dice maledetto, dice bisognerebbe tirarlo, no, detto da lui, tirarlo, no, a balla, dice brutto animale, dice a non buttarlo in mezzo al fuoco. Vabbè, oggi vuoi fare questa gente, fatta così, che un pregiudicato fa casino che vuole, e poi portano dentro due, cosa ci sta? Due, tre ore, arriva l'avvocato, io tutti fuori. Io ho visto qua in zona un pregiudicato che aveva fatto casino, con i capelli lunghi un po', no? Che i carabinieri gli avevano intimato di allontanarsi da lì, no? E lui si è avvicinato al finestrino e ha detto, ah io sto bene qua, perché me ne devo andare? Insomma alla fine questi sono andati in faccia, cioè io ti ne andiamo, cosa? Cioè, lo mandi via, te ne vai, giri l'angolo e torna lì, alla fine lo sanno. O te lo carichi in macchina, boh. E vabbè, purtroppo. Io già ho avuto un nonno che mi ha fatto da padre ed era in marina lui, e poi che era inquadrato, bravo, è una brava persona, però se sgarravi bastava lo sguardo, se sgarravi lui non ti picchiava, però bastava lo sguardo che ti faceva, mamma li turchi. Prima gli anziani erano così, guardavano solo, e se non la capivano erano cavoli. Sì, anche se io, vabbè, poco, cioè io non ho combinato niente di che, però un po' ti faceva capire che ti stavi allargando troppo. Io mi ricordo che nonno, siccome, per farla breve, quando lui non era graduato, insomma, sulle navi, c'erano di questi tenentini giovani, proprio ai tempi della guerra, questi tenentini giovani del nord, tipo bergamaschi, trattando i sardi, dicendoli asino, com'è che si dice? Cioè pigliando la pesce in faccia ai sardi, compreso lui. E nonno che si faceva rispettare, nonostante tutto, dice gli ha dato un cazzotto, l'ha steso, questo ha sbattuto la testa e è rimasto svenuto. Poi l'avranno messo, vabbè lì erano tempi di guerra, l'avranno messo sotto chiave perché avevano bisogno di tutti gli uomini. Intanto gli ha risposto, gli ha dato un bel cartone, capito? Questi giovani arroganti graduati del nord, o bergamaschi, non so di dove fosse, credono di... infatti, ci è rimasto male anche. Ecco, va bene, dai, che me devo allontanare, già ci sentiamo, vai, a dopo magari, devo fare una cosa. Io tanto devo finire di mangiare. Guarda che c'è gente in PMR, se vuoi, dai. Ciao, buona serata. Ciao, ci sentiamo. Marco, mi ricevi? Sì Gianfra, mi stavo allontanando in cucina, dimmi. Mi dici se il segnale è tornato operativo, perché ci ho avuto un grosso guasto sulla linea quando è crollata avanti ieri. Allora, sei 9+20. Quando hai usato l'antenna di fortuna eri 9.10 e 9.15, quindi il metodo delle martellate ha funzionato o hai dovuto fare altro? Ho dovuto cambiare tutto il cavo, perché l'umidità se lo stava mangiando, evidentemente c'era corrosione, sempre sui soliti PL, una rottura di scatole, quindi ne ho tracciati. Ci ho messo un H1000 e l'ho saldato direttamente, senza PL. Proprio radicale, decisione drastica. Io. Ascolta, e questi attacchi N che io non ho mai usato, che solo certe antenne hanno, vabbè, l'attacco N, questo attacco N è più robusto, cioè, come dire, il cavo da fissare, da saldare, non so come si faccia, non ne ho mai saldato uno, è più robusto, cioè se avessi avuto un'antenna con attacco N, lo spinotto N, avrebbe resistito di più, interrogativo? Ma guarda, l'attacco N è un attacco per alta frequenza, quindi è tipo BNC doppio, ce l'ha presente lo spillo del BNC, e così ce l'ha poco poco più grande anche l'N, però è pur sempre un attacco a incastro, capito? Vite, a incastro, eccetera. E quindi anche quello non è che duri di più, tutto lì. Però ho usato in UHF essenzialmente per avere minor perdite, ma certo non lo usi per un RG58, un RG8 neanche. E tutto per cavi, diciamo, per alta frequenza, H1000 e compagnia cantante, capito? No, ma dicevo tipo tensione, se tira, se c'è tensione, resisti più attaccato allo spinotto o il cavo si stacca lo stesso? No, si stacca lo stesso, non ti preoccupare, che ne ho dovuto cambiare parecchio, alla fine mi sono scocciato e anche lì ho usato la maniera forte. Tanto una buona saldatura è sempre meglio di un connettore, la testa che hanno fatto. La saldatura è fatta bene, se ci rimetti l'elettrico sopra, tutte quelle piccoli accorgimenti, regge molto di più e non c'è questi problemi, ogni tanto ti si stacca qualcosa, perché poi siamo anche in un periodo di fortissime dilatazioni, e guarda, c'è stato uno scarto termico da ieri a oggi che dà paura. Io ieri ero su al ripetitore dell'Imbara, cioè, ti dico, ma sono sceso dalla macchina e ci avevo freddo. Oggi, poi anche qua, quando sono tornato, stava molto molto bene. Oggi qua non si può stare di nuovo, sta salendo la temperatura. Quindi è chiaro che PL, cavi, eccetera, con la dilatazione che hanno, sono, è un macello, capito? Eia. Va bene. No, io l'unica antenna che ho trattato che aveva l'attacco N è questa piccola Sirio che ho da questo lato per ricevere in V, in U, insomma, e quella aveva l'attacco N. Ovviamente io l'N non l'ho mai saldato, ho messo direttamente un adattatore da N a PL, pazienza. Che una volta, sì, ho visto su internet come si saldava in dettaglio tutti i componenti dell'attacco N, dello spinotto N, solo che ne avevo preso uno da Fusaro, ma era diverso, era proprio diverso da quello lì, veramente c'è una procedura diversa, vabbè, troppo, non mi interessa, è troppo elaborato, PL è già troppo per me. Ma guarda, l'N quando tu lo chiudi c'ha la parte dove sta il cavo, dove te lo richiudere, no? E fa il tempo tipo tappo di termos, c'è la gomma che quando chiudi, quando serri diciamo il coperchio di sopra, chiamiamolo così, la gomma si espande, quindi dovrebbe bloccare il caldo, solo che essendo gomma per l'appunto è anche soggetta alle varie dilatazioni, all'usura, si trattigheggia un po' per pulpare. E quindi l'unica sarebbe coprire tutto il connettore nel caso sia esterno e quindi dura di più, però sai, non è un'operazione da poco, perché dunque che poi devi fare manutenzione, devi tagliare tutta la vulcanizzazione eccetera, quindi per certi versi lo sale molto secchi. Certo, quando è sulle antenne è un altro discorso, anche io ho dovuto fare così, metterci un riduttore perché ogni tanto ho problemi in antenna, era sempre questo il solito fenomeno, no? che si dilata, e quelle pirulino che c'ha ovviamente, per certi versi guarda è meglio il BNC, che almeno la baionetta e va bene, anche quella baionetta approfitta. Però un baionetta a vite comunque, non sto sbagliando io, l'attacco N, c'è una filettatura, non è a baionetta, lo sto sbagliando io. Del pirulino centrale, sì, me lo ricordo. Sì, comunque anche nei PL delle antenne, per esempio la volgare installazione mia dell'antenna RCB, essendoci un PL lì, dal cavo che va all'antenna, anche lì bello un astratto, con vulcanizzante più un altro isolante sopra per almeno dargli il tempo di rapprendersi e fare malloppo, così l'acqua non entra, speriamo. Sì, con la bagnoletta al BNC, che sfortunatamente è molto più agevole perché lo attacchi e lo sfigli, capito, se devi togliere l'apparecchio. L'N dovevi svettare come un po' il PL, però il PL è un pochino più grosso, capito? E quindi occupa anche spazio, poi i cavi che ci vanno sono molto rigidi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma fino all'HF non ci sono particolari problemi, ecco. Non è lo 0,00 company di DB e ti dà fastidio. Ma all'esterno è più che altro un problema di resistenza. Tutto lì, a seconda di come c'è l'installazione. E così è, ma purtroppo tutte le cose, soprattutto quando sono aperto e poi con questo clima che ci abbiamo oramai, sono diventate tutte delicate e richiedono particolare manutenzione. Sì, la stazionaria sono a zero. E infatti di colpo ho anche aumentato, ho visto la larghezza di banda, c'è una larghezza di banda micidiale adesso. L'ho provata fino a 24,8 e arriva quasi a 30-31. Ah, è aumentata la larghezza di banda. Ma no, ha messo a posto il cavo. E ai limiti di banda quant'è? L'SVR? Allora centrobanda 1,1 e banda 1,4, 1,5 al massimo. Poi però quando ho visto, quando ti sposti proprio ad esempio 24, di colpo sale perché evidentemente c'è un taglionetto come banda passante, capito, sale di colpo. Comunque già è una bella antenna, insomma. Se uno vuole larghezza di banda, vabbè che con tutte queste menate che adesso con questi canali alti per i DX, non so, chissà cosa ci vogliono mettere, forse i carri armati, le radio dei carri armati lì, boh. Insomma, piano piano ci toglieranno tutto a miseri CB, dai, a noi miseri CB. La propagazione sta aumentando. No, quella lì è sempre stata, diciamo, ma non me lo ricordo che servizio c'è, quella del ministro della difesa, quella oltre dove fanno i DX, tant'è vero che quando, e ci sono pane severissime per chi va al di sopra, ma anche in Europa stanno facendo casino, boh. E più su, poco più su, se tu guardi infatti gli apparati, tutti gli apparati militari vanno da 26 a 40, 70, 70, 75, e sono tutte, a parte alcuni spazi, sono tutte più o meno frequenza del Ministero della Difesa. Poi per cosa li usi? Sì, li uso anche come mobile, comunque. Proprio sui carri, se tu guardi tutti gli apparati di carri, sono tutte su quelle frequenze lì, 27-800, poi 29-30. Eia, cioè sicuramente dopo i 29-7, no? Infatti c'è quella famosa, quel famoso PRC che avevo visto e provato, era mi pare 38-55 MHz, sì, era un po' più in alto, partiva da un po' più in alto. Sì, più o meno, ma guarda, quando ero militare, che venivamo spesso da noi i carabinieri, ho provato la radio e mi sono accorto. Quella che c'era l'antenna lunga, no? Anche sulla moto. C'era lo stesso ripetitore, però erano su in gamma 30, 30, 30, 35, giù di lì. Quindi erano molto vicini comunque a queste frequenze. Via. Solo che per esempio da noi in Sardegna io scommetto che facendo una scansione su quelle frequenze anche per mille anni non sentirei mai nulla, non lo so, non ho mai sentito nulla, anche quelle zone lì dai 30 anni in su, vabbè, solo telefoni, quelli cordless, quelli 46-49, 49-70. È una cosa perché magari non c'hai gli apparecchi adatti, non c'hai... Guarda, allora, sui 30 in realtà ci sono, quando c'è molta propagazione c'è anche la forestale, senti anche la forestale americana, addirittura al punto radio del coso, dei ranger lì che fanno la caccia dell'orso Yugi, si sentono sempre quando magari ci sono incendi grossi, eccetera, c'hanno quella banda lì. Altre volte si sentono trasmissioni molto basse e strane, che però non sono in chiaro, sono tutte criptate e sono anche in digitale, perché lì usano molto la voce codificata in digitale e quindi ne hai voglia tu di ascoltare. Poi usano anche la frequenza hopping, che è cosiddetta frequenza a salti, no? C'hanno un gruppo di frequenze e saltellano in millisecondi da una parte all'altra, li puoi rilevare solo con un particolare apparato che ti fa vedere le tracce, no? Dei saltelli. Poi a vedere dove saltellano, quello è tutto un altro discorso. Avevo sentito una cosa del genere, che automaticamente si spostava in trasmissione mentre parlavi, e quindi chi ascoltava si spostava in ricezione, no? Sono cose sincronizzate tra di loro, no? Non è il trunking mode, no? Non c'entra nulla, no? No, il trunking è un sistema adattativo praticamente per vari gruppi radio, in digitale, in DMR, in tetra e così via. Quello militare spesso è per comunicazioni dirette da campo, poi anche loro ovviamente ci hanno ripetitori, sono i Marconi, quelli che hanno centinaia e centinaia di canali telefonici, però sono tutti in alta frequenza. Ma quel tipo di radio lì oramai sono tutte criptate. Tu pensa che c'è un portatile che è imitato da quelli che fanno come si chiamano, quelli che fanno le palline rosse, come si chiamano quelli lì? Soft Air Paintball. Ma per caso l'Harris, quello verdolino più grande o quello nero? di cui non ricordo il nome, del nero. Sì, sì, quello lì, lì che è dentro, poi che la faccia abbia un Baofeng, eccetera. Ovviamente non è un iris, è l'iris. È una cosa talmente sofisticata, non mi ricordo neanche quanto è il prezzo, perché di Baofeng praticamente te ne danno a quel prezzo un paio di scatole e li regali a tutti i passanti. Ed è un apparecchio che va da, dunque, l'ere dovrebbe andare da 26 fino a 550, perché c'è anche il satellitare, a 550 MHz con tutti i sistemi di criptatura, MERP e così via, AES, quindi flex hopping, insomma più ne ha più ne metta. Molto molto sofisticato, tra l'altro credo che ci abbia anche una specie di box che lo metti dentro e diventa un veicolare, insomma una cosa proprio. Il prezzo ovviamente non si può chiedere, perché chi compra quello non è chiedere il prezzo, capito, sono cifre a tanti zeri. Sì, quella roba che si può permettere il governo, roba governativa. Infatti quell'Eris, almeno il verde, mi pare abbia due antenne, cioè una è lunga, poi ce n'è una piccola corta corta, forse anche fissa, sarà quella satellitare, boh, per quante altre. Eh sì, il vero, vabbè, roba proprio fantascientifica, per no, vabbè, paragonato ai Bao Bao sempre. Poi fanno una copia su licenza col nome Harris, però all'interno c'è uno schifosissimo UV5R, cioè c'è il circuito dell'UV5R, te ne accorgi dal display, stesse voci di menu, stessa potenza, eccetera. Però per essere una schifosissima copia se lo fanno pagare già 200 o 250 dollari, l'ho visto non so dove, comunque non in Italia ovviamente. Poi c'è il dummy, no, proprio l'Harris finto, è una scocca di plastica che ha le sembianze dell'Harris, peraltro è chiamato Apis, c'è scritto con la P, Apis, per non violare il copyright, e dentro è vuoto, di solito ci mettono un brondino, un PMR piccolo pure, cioè non ci sta, e fanno uscire le cuffie, microfonino e cuffia, fanno passare il cavetto dal foro dell'antenna, mi pare, o roba del genere. E via. Quello nero non mi ricordo se è lo stesso un Harris o come si chiami, perché per software esistono due dummies, due apparecchi vuoti, finti, plasticaccia, uno è nero, a me piace più il verde comunque, quello con due antenne. Sì, sì, sono ricordi. Guarda, quanto costa? Credo che il contenitore questa ragione costi 9,93, poi non lo so. Eccolo, non è neanche questo. Euro, quello che dici tu, che è il stack ski, dovrebbe essere, poi ci mettono la sigla militare, un NPCR 152, 152A, però ovviamente se fosse come militare probabilmente ci avrebbe forse due zeri dietro, giù di lì. Bene, tutta roba bella. Ho visto anche apparecchi pseudo-amatoriali o civili, praticamente l'hanno completamente tinto, quasi completamente, forse a parte le manopole, in digital acu, con la mimetica, con la mimetizzazione americana, tutta a quadratini di grigi di varia tonalità. Una figata era, guarda. Una figata, faceva la sua figura. Infatti. No, comunque non penso che sia quelli infatti qua sono capitato, questa è dalla Marina, no? Marina Militare Italiana, sto facendo l'acquisizione per gli accessori dell'ERS 152 e quindi ci sono degli accessori che non sa neanche cosa sono, figurati, tutti siglati, carri dati, MBHK, PPP, insomma, sono, guarda, sono tre accessori, per prenderne un po' qua, adesso non so quanto siano, sono 39.000 euro, solo per qualche accessorio, quindi saranno magari laringofoni, quella cosa lì. Però non c'è scritto quanta roba è, se non ti vedi anche il numero di, per la fine dei prezzi che hanno queste cose, che sono folli. Sì, sì, prezzi proprio da forniture governative. Ti volevo chiedere, ma tu ovviamente avrai visto quel botto immane che c'è stato a Beirut, no? Ci stanno dicendo tutti che è nitrato di ammonio, vabbè, ma quello che mi ha impressionato è quella, che mi ha impressionato veramente, è quella condensa dell'aria dovuta alla sovrappressione dell'esplosione, cioè quello col cavolo che era nitrato d'ammonio, magari ce n'era pure, ma quello a me sembra esplosivo militare, di quelli che hanno una velocità di detonazione altissima, perché l'onda d'urto era spaventosa, poi addirittura fare la condensa dell'aria, fatto questa campana enorme che si espandeva velocemente. Credo che sia la seconda esplosione non nucleare più forte mai successa dopo l'esplosione dell'impianto di Halifax, non so, negli Stati Uniti, non so cosa fosse, non mi ricordo, devo documentarmi. A parte il nitrato di ammonio è un comburente, cioè a meno che non ingeppi di roba combustibile lì, per quanto caldo ci potesse essere, non fa botti del genere. E caspita, sembrava una mini bomba di quelle portatili, tipo SADM, no? Quelle, come si chiama, piccole cose da demolizione nucleare, magari interrata. Quindi lì ufficialmente magari c'era un deposito di fuochi artificio, ufficialmente, magari era tutto stoccato di esplosivi, roba militare, armi, esplosivi. O c'è stato un incendio oppure qualche intelligence gli ha fatto fuori, così non ne possono usufruire i terroristi, boh, chi lo sa, non lo sapremo mai. Sì, allora, quella a cui ti riferisci è quella cittadina canadese, era in Canada prima della, anzi prima, durante, adesso non ricordo, la prima guerra mondiale, in cui avevano anche lì stipato esplosivi di ogni tipo e genere, ha fatto praticamente un, è sempre qui vicino ai porti ovviamente, perché queste cose poi vanno messe in nave e così via. E quella lì era stata l'esplosione più devastante di quell'epoca, non causata praticamente da ordigni nucleari. Di lì ha fatto quasi 2.000 morti, quindi è una cosa abbastanza grossa. Quindi in Canada era successo, l'ho guardato marginalmente, non ho approfondito per niente. Comunque, vabbè, sì, proprio, cioè, non ho visto esplodere fabbriche di fuochi artificio, altre cose, però quella nuvola tipica di un'esplosione supersonica, mi, vabbè, quella mi ha colpito, non tanto la, a parte lei il coso immane che ha fatto, il fungo, no? Uno spostamento d'aria terrificante, sembrava la Moab quasi, quel proprio esplosivo ad altissimo potenziale, come che si dice, military grade. Sì, guarda, se tu ci pensi, quella lì di Halifax, hanno calcolato circa 3 chilotoni come potenza esplosiva. E tutto è successo da un casino fatto da Guenauri, che non so quando dovrà andare, una andata a destra, l'altra è andata a sinistra, poi di nuovo a destra, si sono scontrate, incendiate, era tutto zeppo di benzina, è arrivato al molo, dal molo poi ha fatto una grossa temperatura ed è detonato tutto l'esplosivo che c'avevano a bordo questi qua. Quindi se tu pensi che in quel deposito ce n'era proprio, guarda caso, nitrato d'ammonio e poi c'era stata anche altra roba sicuramente, che comunque è un esplosivo molto potente, credo che sia stato usato anche per far saltare in aria il palazzo dell'FBI a Washington, credo che sia, sì. Visto che è stato la ridotto, sì. Era un furgone carico di nitrato d'ammonio. Ma mischiato a qualcos'altro necessariamente, perché da solo non è che esplode. Quello è un comburente, ci vuole un combustibile miscelato. Non mi torna qualcosa, sì, nominano sempre quello, anche per le mine da cavo, ma il nitrato d'ammonio da solo, oh, vabbè. Sto leggendo i dati tecnici per dire cosa può essere, se è vero che più potente di questa cosa che è successa a Beirut. I senza tetto sono stati 25.000, la superficie di distruzione un chilometro è 1,40 km, l'onda d'urto di 1,6, la distanza dei danni minimi, cioè minimi rottura di vetri, qualche tetto che ne farà, 16 km, la distanza massima in cui si è sentita l'esplosione dice 360 km, l'ancora di questa nave l'hanno trovata a quasi 4 km di distanza, un cannone a 5 km qua dice, quindi figurati cos'era la razza di cosa micidiale. Il cavolo, ma secondo te questa di Beirut, almeno la seconda esplosione, cioè quella immane, era più forte di quella di Halifax o no? Stanno ancora comparando i dati? Adesso faranno i calcoli. Tieni presente che in entrambi i casi qua non stiamo parlando di un deposito a Beirut, qua era una nave che era carica l'esplosivo, ma poi anche tutto quello che non sappiamo, figurati tutte le navi che hanno affondato, i sommergibili erano carichi di esplosivi di tutti i generi, di munizioni, e ce ne sono state le esplosioni, quindi un disastro praticamente. Su YouTube in tanti anni hai mai visto per caso di quella serie Discovery, Destroyed in Seconds, quell'esplosione dell'impianto di produzione di propellente per razzi tipo shuttle, e anche lì aveva fatto un bel botto, lì era una zona un po' più isolata, no vabbè, non era in città, un bel botto, però persino lì, per quanto forte fosse, non c'è stata quella nuvola di compressione dell'aria, quella che fanno anche i jet quando raggiungono la velocità del suono, hai visto? Quando sfondano il boom sonico. Guarda, per quello c'è tutto uno studio di balistica particolare. L'ultimo filmato che ho visto, che oggi praticamente era di quella che si è sposata, chissà che distanza era, però insomma è stata miracolata praticamente, perché i vetri sono tutti partiti, lì ha investito la sposa, non so cosa ci sia rimasto di tutto vestito, ma in molti casi, tipo bombardamenti eccetera, hanno trovato persone totalmente nude, per dirti la potenza di questi spostamenti d'aria, che poi tieni presente che oltre all'effetto esplosivo, quindi di correnti, c'è anche l'effetto di tutte le schegge, anche di vetri eccetera, che viaggiano a centinaia di chilometri all'ora, trovano la persona, la passano da parte a parte. Poi comunque di lì sono state due in realtà le esplosioni, una più piccola e una enorme. Sì, sì, sì, la prima esplosione con quel fumo grigiastro, no? La seconda era proprio istantanea, una cosa rapidissima. E poi questa, sì, questa onda d'urto, l'aria proprio pressata, già hai capito, no? Una nuvola di condensazione, eccetera. Mi pare che hanno fatto vedere la foto dall'alto, si vede il cratere a fianco a quell'edificio, ci è rimasto poco ormai, ben poco, si vede come una forma circolare, dal cratere si è riempito d'acqua peraltro, perché lì c'era il mare, insomma a un passo hanno trovato l'acqua filtrata da sotto. Mamma mia, certo vederlo dal vivo deve essere impressionante, anche a distanza deve essere impressionante. Ovviamente l'avranno vista anche da satellite, per una cosa del genere sarà stata ripresa dai satelliti, poi le immagini saranno sicuramente secretate magari, perché si può vedere di tutto, qualcuno diceva che c'era un aereo che è passato, poi che sia doloso, che sia incidentale, insomma sappiamo tutti com'è la situazione in quei paesi, non è che non ci va nessuno a romperti le scatole per le misure di sicurezza, capito? Già succedono da noi che c'è la vigilanza, figurati in quei paesi lì dove se vedi dei filmati anche facendo lavori su impalcature, sui muretti stretti 20 cm di infradito, cioè qualcosa da matti veramente. Infatti ho chiesto anche a un mio amico che di lì ci va spesso alla terra, ma è vero che questi lavorano? Ho detto, ma è caspita che dove questa gente passa, ma intanto ne vuole qualcuno infatti. Ehi, ma perché anche da noi, no? Caschi, vabbè che poi non se ne mettono gli operai, caschi, certe volte non prendono tutte le precauzioni, perché d'altronde c'è caldo, ti pare che nell'estate mi metto il casco, e tante altre cose. E una bella spazzata adatto, poi i grattacieli, sai, i grattacieli sono alti, quelli anche distanti che erano otticamente a portata dell'onda d'urto, sfasciati i vetri. Mamma mia, ma cosa, perché era vicino, macchine capottate, pucci pucci. No, io quando avevo sentito la notizia il giorno prima, attentato a Beirut, avevo sentito una cosa, io credo, sarà la solita autobomba, invece il giorno dopo vado a vedere i filmati YouTube. Ma cos'è questa cosa? Pari, sembrava quasi una sub-kiloton interrata lì, non vedi il lampo perché è interrata, vedi solo la fiammata e poi questa campana di aria compressa che si espandeva rapidissimamente. Porca miseria. Sì, anche io li ho visti portare gente che non metteva il casco e quelle cose lì, però tiene presente una cosa, che quelle sono imprese da Trevisi, no? Capito? Perché se poi passa il coso, l'ispettorato eccetera, non è che ci piange tanto l'operaio, ci piange l'impresa, capito? Perché le chiedono tutto. Infatti ci sono tante imprese che se ti vedono senza casco ti licenziano in tronco, può essere il licenziamento per giusta causa, perché ci sono dei posti in cui è assolutamente obbligatorio, raffinerie, costruzione di ponti e così via. Se tu guardi i filmati ad esempio di quelle di cosa, di come si chiama, stanno facendo vedere anche su Focus, no? Sono tutti rigorosamente sul casco, col casco, no? Ma anche sull'altro sono molto pericolosi. È così. E di lì lì era tra l'altro in superficie, capito? Se fosse stato interrato magari c'era uno sviluppo più verso l'alto, e lì invece era dentro un magazzino e quello ha saltato e quindi ha spianato tutto quello che ha fatto. Se pure una città senza neanche una collinetta, guai, perché un adulto cammina per chilometri. Vabbè, qua sai come il sud Italia, no? Anche da noi, se ti fidi le imprese edilizie, giumai vedi ancora il muratore con lo cappellino di carta in testa, come si vedevano in film anche comici anni 70 italiani, 70-80, più 70, col cappellino di carta. alla linea Banfi che faceva il muratore, te lo ricordi, che ci metteva il piede sempre nel cemento lì, nella, come si chiama, nella bacinella. Però sai, il gioco adesso non vado più a Candola perché ti chiudono un cantiere, adesso ci sono i responsabili, e tu fidati che un giorno siamo fermati in via, un po' più su dei vigili urbani, adesso mi viene la via e stiamo costruendo il palazzo, e effettivamente c'era qualcuno col casco, e siccome siamo bastardi, ci siamo avvicinati con un collega che guardando, facendo il segno, no, guarda, senza casca, cioè, è uscito l'impresario, l'ha pigliato e se l'ha portato dentro, chi sono tutti i coglioni? Ogni tanto facevamo queste cose. Mamma mia, perché adesso con queste cose si rischiano più che mai. Quando fanno vedere la costruzione di soprattutto Stati Uniti, no? Costruzione di mega grattacieli, lì rigorosamente, poi quando fanno i video ovviamente fanno tutto più che mai imbragature, caschi, roba mai vista, quella mai vista. Lasciamo perdere. Sì, perché ci sono necessarie, diciamo, se vuoi, perché ti capita un controllo anche lì, sono casotti, capito? Sono pene molto pesanti ora. Quindi nessun impresario si rischia, l'operaio che non mette il casco, eccetera, fa un calciatone che quanto ne basta, perché ti mette nei guai, ti ferma pure i lavori magari. No, se tu ti ricordi prima, per le costruzioni tipo il ponte di Brooklyn, quelli lì, o di San Francisco, si vedevano, credo che fossero indiani, no? Perché gli indiani non lo fanno tubo, non soffrono di vertigini. Ed erano, facevano colazione con le gambe fuori sul coso, no? su quelle impalcature lì, tutte d'acciaio, su quelle travi, ma c'è nada da fare, sotto le macchinette piccole che passavano, e loro mangiandosi il panino, facendo la pausa a pranzo. E negli anni 30 era tutto così, Sì, quei classici poster e immagini dell'epoca. Sì, questa cosa io non ho capito, ma gli indiani non soffrivano i vertigini, ma non avevano neanche paura dell'altezza. Porca miseria, già roba che posso fare io, me. Cioè, loro vertigini posso capire, ma non avevano paura dell'altezza. Cioè, loro sanno che basta mettere un piede in fallo e fai il volo di centinaia di metri. Vabbè, sì, belle quelle foto, belle. Qualcuno aveva criticato che fossero autentiche, perché a parte gli indiani c'erano anche facce tipo europee, comunque inglesi, americane, razze bianche, diciamo, no? Tutti seduti sulla trave con il cestinetto della merenda, con quei contenitori che usavano allora, gavette sembravano certe, vabbè. E di tutto c'era, italiani, irlandesi, tanti, però la gente non considerava una cosa, che a quell'epoca dovevi prendere il lavoro che c'era, se no era la fame, c'avevi famiglia, lì c'era la fame vera, questa la fame che non mangiavi, quindi se volevi portare qualcosa a casa era già un privilegio fare quel lavoro. Sì, all'epoca gli immigrati erano quelli, italiani, irlandesi, eccetera. Adesso invece, se tu vedi questi poveri disgraziati sottopagati in America, tutti messicani, portoricani, oppure sudamericani, magari manco regolari, senza carta verde, infatti i poveretti, io mi baso sempre su telefilm, no, che vedi, tutti ispanici, bene o male, quasi tutti ispanici, almeno il 90%, poi non si sa da che parte, se da Messico, se da Argentina, Cile, boh, non si sa, Bolivia, tutto ci deve essere lì. C'è un po' di tutto, ovvio, che anche il sud-est asiatico ce ne tante, però il punto è sempre quello, che tutte queste migrazioni sono sempre la causa di uno sfruttamento fatto dai paesi ricchi verso paesi poveri, perché quelli da li ha sfruttati per tanti anni, le ha rubato le risorse e dopodiché sono alla fame. Insomma, l'ingiustizia è sempre la causa di tutte queste cose umane e penso che sia ancora lontana la soluzione. L'immigrazione ci sarà sempre, finché non cambia la mentalità dell'uomo, ammesso che possa cambiare. Regni l'ingiustizia, è così, non c'è poco da fare, chi c'ha tanto e chi non c'ha niente. Anzi, con questa globalizzazione, chi è ricco, ma ricco forte, sarà sempre più ricco, chi è povero, sempre più povero. Poi tutte queste menate che girano adesso, che piano piano vogliono eliminare il contante, già devi giustificare ogni movimento bancario. Ma poi voglio eliminare il contante da tenere in casa, vogliono controllare ogni centesimo che spendi o che ricevi, vogliono sapere da dove viene, per cosa ti serve, che ne so, anche le spese mediche devi giustificare, vogliono vedere se ti compri il Viagra, capito, altro che privacy. Ma questo, vedi, questo è dovuto alla poca conoscenza dei fatti reali. Chi non si occupa di quelle materie la vede sempre sotto il punto di vista di tante scuse, non può usare i contanti qua, là, su, giù, a destra e a sinistra. Io personalmente di contanti ne ho sempre pochi, vado nel portafoglio che vado ad avere 5 euro, 10 euro, una cosa del genere, però c'ho sempre la carta appresso, quindi se la rubano la blocco, non c'ho problemi, per me è una sicurezza. Poi il fatto che dici tu, che sanno cosa fai o cosa non fai, è una cosa di poco ridicola. Nessuno si accorge che siamo circondati da telecamere, circondati da sistemi in grado di logare qualunque tua operazione. Ad esempio, tutto quello, molti sono convinti che quando vanno su internet, eccetera, ci sia un segreto. Il segreto non ce n'è, non c'è privacy, perché il provider è obbligato a avere i log di tutta la tua navigazione, pagina per pagina, ricerca per ricerca, sanno tutto, quindi sanno se, che ne so, se a te ti piacciono le donne ciccione, se ti piacciono le donne magre, se ti piace mangiare pasta asciutta oppure mangiare ceci, tutto, se tu vedi i log dei server ti metti le mani in testa dei dati che contengono, quindi quello di dire l'utilizzo dei contanti fa sorridere per chi c'è in mezzo in queste cose, guarda. Tu fidati che a volte la polizia uno fa le indagini, neanche si muove dalla scrivania, accende il computer, fa una ricerca e sa già tutto. Brigia, dalla città di Taranto, con la buonasera. E Taranto, no, 9.40 quasi, un po' troppo mi sembra. Hola, attenzione amici del nord Italia, break dalla station Papa Mike Rocco in Taranto. rispondere TUS sta chiamando qua, che io non, per i DX non sono tanto ferrato. Ehi, io mi devo assentare un attimo Gianfranco, un attimino Sì, anche io rimango un attimo all'ascolto che stavo guardando una cosa. L'amico si è assentato un attimo, Io ho capito Gianfranco, ascolti la station Papa Mike, se non che Rocco dalla città di Taranto. C'è qualcuno? Avevo brincato sul canale 10, però non ho avuto nessuna risposta. Il canale 10, c'è qualcuno che ascolta la station Papa Mike, se non che Rocco, non QSL. Evidentemente, avanti i soldi in blu, non so. Va bene. A un amico in Asti, ripeto, per uno che ascolta la sola Italia e non che la station Papa Mike, operatore Rocco in Taranto, ovviamente con la sera. Prova radio 1 2 3 prova radio prova radio